Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Parleremo di internazionalizzazione grazie alle piattaforme digitali, a come le aziende hanno le opportunità di poter andare a scalare posizioni e potersi conquistare un posto al sole nei mercati esteri, mercati che sono sempre più globali e che vedono competitor che arrivano sul mercato italiano, ma che dall'altra parte invece permettono alle nostre imprese di poter andare a lavorare e poter competere su mercati differenti da quello italiano e che aprono contesti e scenari completamente diversi. Addirittura oggi siamo in collegamento con la Cina, con Tiziano Peccenini, detto Pecce, e qui in studio abbiamo il figlio Pietro Peccenini, ma partiremo subito con i nostri ospiti, non prima però di aver ascoltato la nostra scheda. In un mercato sempre più globale, reso a portata di click dalle tecnologie, le aziende si confrontano giornalmente con stakeholder di tutto il mondo. Nuovi competitor si affacciano sul mercato, agili e veloci. I clienti di oggi e di domani sono a un click di distanza dal modificare le loro esperienze e preferenze di acquisto. Alleanze e fusioni rendono gli attori di mercato sempre più strutturati. Secondo il rapporto European SME Exporting Insights di UPS, le nostre piccole e medie imprese sono al pari della Spagna e dietro a Germania, Francia, Polonia e Regno Unito per propensione all'export. La sfida dell'internazionalizzazione non è più rimandabile. Deve fare parte dell'agenda di imprenditori e manager come una delle priorità a cui fare fronte con un progetto strutturato e nuovi strumenti di supporto alle decisioni. L'eccellenza qualitativa delle nostre industrie, riconosciuta spesso più all'estero che non in patria, deve essere un elemento distintivo su cui fare leva e deve portare a ripensare al modello di approccio ai mercati esteri. La complessità di questa sfida può essere facilitata da nuovi servizi digitali che, grazie alle informazioni presenti in rete, possono aiutare ad affrontare questa sfida. Eccoci qua, bentornati in radio con la nostra puntata oggi di Radio Next dedicata all'internazionalizzazione delle imprese. Parliamo al telefono con Tiziano Peccenini, detto Pecce, che è al di là delle colonne d'Ercole, ossia in questo momento Pecce si trova in Cina. Saluto subito però prima Pietro che è qui di fronte a me. Buongiorno Pietro. Ciao Pepe. Allora, Tiziano Peccenini, detto Pecce, il fondatore e presidente onorario del Wall Street Institute, 28 paesi, nato quando? 1972 a Milano. E arrivato dove fino ad oggi? Praticamente in 5 continenti. Sono formati ormai quasi 3 milioni di studenti, insomma. Scusate se vi interrompo, ma a me non è sfuggito che hai detto che sei nato nel 1972 a Milano. Perché questa è la mia vera età. Ah, perfetto, cioè, perfetto. Grafica, non c'entra niente, no, io gioco ancora al calcio. Ottimo, Pecce, ottimo. Senti, allora, Pecce imprenditore, nasce come imprenditore e continua oggi dalla Cina a essere e a pensare da imprenditore. Da dove nasce l'idea di un'ennesima avventura imprenditoriale nel mondo del cibo italiano, stante il fatto che, come dire, ce ne potrebbero essere già tante, no? Perché una nuova avventura imprenditoriale nel cibo italiano? Ennesima, fino a un certo punto, perché io ho creato poi alla fine solo 3 aziende. Una quando avevo 25-26 anni, poi la Computex nel 69 fino al 72, che è la madre un po' del metodo Wall Street, e poi Wall Street, e adesso c'è questa nuova avventura di cui parlerò fra un attimo. Io ho sempre dato la precedenza, la priorità a fare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di interessante per gli altri e come conseguenza a guadagnare anche dei soldi, perché evidentemente un'azienda altrimenti muore, questo. Certo. Quindi l'idea per esempio anche in Wall Street, quando io ho cominciato e ho rivoluzionato il metodo di insegnare l'inglese, oggi il metodo che viene copiato un po' in tutte le parti del mondo, insomma, no? Adesso questa idea è un progetto sulla pizza. Perché non esiste nel mondo una catena di questo genere, di pizzerie, diciamo, che abbia la paternità italiana. Se tu prendi Pizza Hut, che è americana, Pizza, certo. Domino, che è inglese, e altre, insomma, Papa John's, eccetera, dico, ma come? La pizza è italiana. Poi, ovviamente, ci sono delle pizzerie italiane in tutto il mondo, ma non una catena di questo livello, di questa dimensione, no? E quindi ecco perché abbiamo aperto insieme a mio figlio, da un anno e mezzo, un negozio pilota a Venezia. E però non è solo il fatto che quindi sarà la prima a essere italiana, eccetera. No, è completamente una cosa nuova, è un progetto educational, perché anche parlando dell'inglese, ma l'inglese è stata una scusa in tutte le in tutti questi anni in Wall Street. Io ho insegnato anche a diventare migliori esseri umani. Questo è un progetto educational, quello della pizza. È la prima pizza, cioè la prima pizza ecologica, la prima che non ha la farina bianca, insomma, sì, un po' lo rama. Poi ci sarà per quelli che amano la pizza margherita, ma con la mozzarella di prima qualità e non nelle quantità industriali. Insomma, è un progetto, è una scusa anche per insegnare alla gente mangiare una pizza sana, ma noi daremo delle notizie, delle informazioni anche per iscritto, con dei volantini, delle cose, di quanto l'alimentazione sia importante per mantenersi in salute. Prendendo spunto dal tuo libro I miei incontri con la generazione Y cinese, quindi con i millennial, che cosa hai trovato di diverso rispetto alla stessa generazione qui in Europa? Quali dei due mondi, di quali delle due società ti sembrano più orientate all'imprenditorialità, alla capacità del fare? Ma io direi che quasi direi cinesi, perché? Perché hanno fame. Non sono fame, improvvisamente non avevano questa libertà di poterlo fare, si è spalancata non una finestra ma un portone, e adesso lo vogliono fare quasi tutti. Sono liberi oggi di darsi all'imprenditoria. Non lo erano 20 anni fa questi giovani, o 15 anni fa non lo erano. Certo. Quindi secondo me io do un punto in più ai cinesi, insomma, no? Cosa pensi degli imprenditori di oggi rispetto a quelli di ieri, guardando ai cambiamenti che le nuove tecnologie e il digitale stanno portando nei sistemi relazionali economici? A te capiterà di tornare in Italia ogni tanto, di vedere, di incontrare imprenditori italiani, no? Come li percepisci? Li senti affamati? Li senti vogliosi di fare? Come stanno vivendo questa trasformazione, secondo te? Bisogna sempre vedere il contesto culturale, sociale ed economico. Come cambia la società, cambia anche il modo di fare impresa. Cioè ormai c'è più individualismo, c'è più egoismo nel mondo. Io ho preparato in un seminario già qua, 2 o 3 anni fa, 3 minuti di partite di tennis. Sì? Dai tempi di Lendl e di McEnroe fino ad oggi. Gli ultimi gentlemen sono stati Agassi e Pete Sampras, facevano il punto, tornavano al loro posto e continuavano a giocare. Adesso si guardano come se dall'altra parte ci fosse uno da ammazzare. E tutti i gesti, c'è un'ipercompetizione, spaccano le racchette, ma è una roba, cioè è cambiata la società e quindi cambia anche il modo di fare impresa, di lavorare. Sono eccezioni oggi quelli che fanno veramente squadra e lavorano con la passione con cui pochi ancora, ma c'erano molti di più ai miei tempi, insomma, no? Pietro, qual è la vostra strategia di crescita di questa nuova impresa Bella e Brava? Allora, questa impresa ha una vocazione internazionale. In un senso anche ironico ti posso dire che vendere la pizza in Italia è come vendere il ghiaccio al Polo Nord, per cui è così. Ci abbiamo pensato a fondo e il nostro target è soprattutto, chiamiamola in cultura senza mancare di rispetto, diffusa nei paesi, tipicamente il Nord America, ma anche la Cina, che adesso è un paese decisamente sviluppato, ha importato il modello culturale americano sul food. Mm-hmm. E in Europa ci sono tante nicchie molto interessanti che poi andremo a discutere dopo più nel dettaglio. Come avete impostato la vostra strategia di internazionalizzazione? Abbiamo impostato un discorso di standardizzazione del modello di business che sia facilmente replicabile. Questo ci consente di essere snelli, mantenendo una qualità estremamente alta, quindi un rigore nel sistema che è fondamentale, che è la base di tutto. Dopodiché c'è un confronto molto diverso dal punto di vista dell'approccio di business con il territorio, che abbiamo fatto già su Venezia, no? Che tu puoi andare a vedere di persone, a partire dallo stesso marchio, che è un esperimento, se vuoi, un po' provocatorio. Noi non avremo mai un marchio identificabile, ma ogni città avrà il suo personale marchio. Ah, questo è interessante da un punto di vista della comunicazione. Non avete paura di una dispersione, di una difficoltà di riconoscibilità del marchio? Allora, c'è questo rischio, però abbiamo anche l'arroganza, se vuoi, di chi ha un po' di coraggio, per cui noi ci proviamo. Se poi dopo ci prendiamo le sberle, torneremo indietro. Il fatto di provarci, di mettere in conto che si può anche sbagliare, di imparare, di ripartire, è uno degli assiomi fondamentali dei principi della trasformazione e di quello che sta accadendo nei nuovi mercati. Oggi stiamo parlando con una startup a tutti gli effetti che ad oggi non ha ancora lanciato. E perché ho voluto portare Bella e Brava i microfoni di Radio Next? Perché, Pietro, vorrei che tu mi raccontassi come avete identificato i paesi nei quali andare ad aprire le prossime sedi. Allora, adesso ci siamo focalizzati con la mia squadra sull'Europa, uh-huh, che è il territorio più logico dove svilupparci. Abbiamo fatto le cose classiche, quindi abbiamo fatto gli studi di mercato, abbiamo preso i dati del World Economic Forum, siamo andati a vedere dove hanno studiato di più, dove di meno, dove hanno più capacità di acquisto, l'inflazione, i prezzi medi, il sistema paese, le burocrazie, le leggi, la criminalità. Poi chiacchierando quotidianamente con i nostri partner strategici, che poi non è che sono 500, sono 2 o 3, insomma. Ci è arrivata sulla scrivania questa fantastica idea, non so se lo posso dire, da parte dei ragazzi di Open Knowledge, sì, sì, che sono un gruppo di giovani estremamente brillanti che mi hanno conquistato da subito, anche perché io sono abbastanza vecchio oramai, con i miei 44 anni, e devo dire che su certe cose mi sento superato. Ecco, diciamo, Open Knowledge, società di consulenza italiana, esatto, 100% italiana, peraltro il gruppo BIC, con i quali appunto avete lavorato e ti hanno portato una bella idea o un bel progetto. Loro hanno avuto un approccio estremamente intelligente, secondo me, nel senso che non è che noi gli abbiamo firmato un contratto milionario, uh-huh, per cui si occupano di cosette per noi e anche per loro, e l'hanno fatto con la logica di chi capisce o crede nel potenziale di una startup. Dopodiché, arrivati a questo capitolo, quindi dopo un anno e mezzo che si lavora insieme, loro mi hanno parlato di questa possibilità di fare uno studio di social intelligence. Spiegacelo un po'. Ovviamente io non l'ho capito niente quando me l'hanno spiegato, proprio perché c'è questo distacco generazionale, poi non è il mio mestiere. Di fatto, poi l'ho capito, non so se sono bravo come loro a spiegarlo, però ci provo. Non importa, tu sei l'imprenditore, quindi tu hai in testa quali sono i tuoi obiettivi di business. E di fatto è una mappatura estremamente chirurgica di quello che a noi interessa. Nel senso, la domanda è: ma dove andare? Cioè, l'Europa è grande. È piena di città sviluppate, piena, certo, di ricchezza, di cultura, di sfaccettature, di sfumature. E loro ci hanno detto: perché non proviamo a mappare i post, banalmente, sì, cioè quello che la gente mette su Facebook e Instagram, identificando le immagini, mappando gli hashtag. Sì, è corretto. E ne viene fuori un ritratto di sensibilità per le città superiori ai 200.000 abitanti su quello che a noi interessa, che è ovviamente la pizza. Ma non solo la pizza in quanto pizza, ma con un'attenzione al made in Italy, al cibo salutare, alla qualità, facendo la cosa che mi ha convinto poi un ragionamento per densità, perché è logico che a Londra, che ci sono 15 milioni di abitanti, ci sono più post che a Rozzano. Che in provincia di Milano, per chi ci ascolta da fuori esatto, Milano. Però è possibile che a Rozzano ci sia una tale sensibilità per il discorso che il 100% degli abitanti si occupa di pizza dal mattino alla sera. Allora meglio quasi andare a Rozzano che a Londra, che non a Londra, in un certo senso, no? Beh, Rozzano come Londra, quindi se volessimo riassumere ci stiamo dicendo: avete analizzato i discorsi, le discussioni online, e avete identificato quali sono le città con maggiori 200.000 abitanti nel rapporto tra il numero di persone che ci abitano e il numero di post rilevanti per gli argomenti che voi avete identificato. Quindi pizza, esatto, in questo caso, qualità del cibo, made in Italy e via dicendo. E quali sono stati i risultati? Allora, i risultati sono molto interessanti, perché non ti aspetteresti mai di trovare al secondo. Loro mi hanno consegnato una classifica, no? Certo. Che può essere la top 100, io ho chiesto la top 5, poi ovvio che voglio anche tutto il resto della lista. Certo. E la cosa interessante è che ho scoperto l'esistenza di una città che ignoravo, chiedendo scusa ai cittadini di questa città, che è Breslavia. Breslavia in Polonia, una cittadina universitaria apparentemente meravigliosa, non vedo l'ora di andare, che ha 600.000 abitanti e è al secondo posto della lista, cioè davanti a Berlino, per capirci, no? Quindi in teoria, ad oggi, non essendo confermato, Breslavia potenzialmente, secondo quanto ci dicono i social media, è una città dove potrebbero esserci più acquirenti interessati al nostro prodotto pizza di qualità e made in Italy che non, per esempio, Madrid. Esattamente, questo è analizzando quello che abbiamo analizzato. Certo. Quindi questo diciamo che è un approccio molto differente dal tradizionale che invece incrociava dei dati che sono sociodemografici ma, come dire, flat, piatti uguali per tutti, perché non raccoglie, come dire, l'humus, non raccoglie il percepito delle persone, non raccoglie quello che le persone esprimono in maniera naturale, no? E che appare sui social media. Assolutamente sì, presenta i suoi vantaggi immediati, che sono di facile comprensione anche per me. Ci sono, secondo me, dei rischi, però, che bisogna valutare attentamente. Diciamo che oltre ai sistemi tradizionali di ricerca di mercato e questi nuovi strumenti fantastici che la tecnologia ci dà, rimane il fiuto, che non bisogna assolutamente ignorare. Certo. Per cui adesso partiranno le missioni per andare a capire cosa vuol dire tutto ciò. Però a Breslavia non ci sareste mai andati se grazie a questa ricerca non lo aveste scoperto. Esatto. No? Sareste andati magari a Madrid, a Barcellona, piuttosto che a Parigi o a Berlino, esatto, e via dicendo. Qualche altra sorpresa oltre a Breslavia? La prima. Beh, va bene, dai, ve la dico. Amburgo. Quindi Amburgo molto più di Francoforte o di, sì, o di Monaco? Sì, molto, infinitamente di più. Tanto che non compare neanche Monaco nella parte alta della classifica. Molto interessante, molto interessante. Senti, e ora come si comporterà l'imprenditore Pietro Pecenini di fronte a questi risultati? Ce l'hai accennato, quindi partono sì, a questo punto le missioni adesso, per andare a esplorare il mondo. Esatto, adesso stiamo costruendo un piano di viaggi per prendere una decisione anche in fretta, perché abbiamo voglia di lavorare, noi non c'è, studiare è bello, però insomma abbiamo tutti studiato molto, la nostra è una generazione che ha studiato abbastanza, parecchio, ecco, per cui abbiamo voglia di lavorare, di partire. Adesso tra novembre e febbraio faremo i nostri viaggi, perché sai, poi c'è tutta quella parte di popolazione dagli over 60 in su, sì, che cominciano a maneggiare bene i social, però magari scopriamo che poi a Parigi c'è una setta meravigliosa di milioni di pizzaioli entusiasti vegani i quali però non postano sui social, esatto, e quindi potenziali clienti che non sono stati intercettati, no? Mi sembra più che corretto, per cui mai ignorare il fiuto. Insomma, la tecnologia deve essere uno strumento, non deve darci le risposte, secondo me, ecco. Allora, Pietro, perché ti faccio quest'ultima domanda, però questa mi è venuta un po', come dire, frequentandovi sugli strumenti digitali. Perché non è possibile oggi ordinare il vostro cibo con servizi come Foodora, Just Eat o Deliveroo? Perché non è il momento, nel senso che noi adesso vogliamo costruire un'identità sulla base delle nostre esclusive forze. Ci sarà una fase 2, che è legata poi ai piani di investimento e di sviluppo, no? Nella quale faremo questo tipo di apertura che ti dà, come dire, una dimensione nuova e molto più ampia, no? E più capillare del tuo business. Ma questo non è il momento. Adesso noi stiamo maniacalmente costruendo ancora il modello di business. È molto interessante, Pietro, vedere come oltre alla passione ci sia la curiosità e la voglia di sperimentare per lanciare un nuovo business, una nuova impresa, non solo affidandosi al proprio fiuto, non solo affidandosi alla propria esperienza, ma anche decidendo di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e di vedere che cosa ci raccontano un pochino altri mondi che magari non ci appartengono o ai quali non ci sentiamo così vicini. Come imprenditore, che cosa ti fa più paura del mondo digitale? Guarda, ti faccio un esempio che mi viene facile. Io faccio anche il pilota, no? È più, se vuoi, un hobby, però diciamo che sono a un buon livello, ecco. Mi fa paura come la gente che guida la macchina e si sente tranquilla perché ha il controllo di sbandata o l'ABS o l'antipattinamento, eccetera, ignorando che comunque non sono dei sistemi che possono superare le leggi della fisica. Se tu quella curva la puoi fare al massimo a 90 all'ora, anche se hai tutta l'elettronica di questo pianeta, finirai nel fosso. Anche se guida Senna, poverino, finirà nel fosso. E questo diventa un alibi, la tecnologia, da questo punto di vista, a volte per evitare di assumersi delle responsabilità. Fortunatamente nella nostra squadra c'è gente molto intelligente, cosa che ho già detto. Quanti siete in squadra? Diciamo che la squadra, il core, il cuore dell'azienda, siamo sei persone. Insomma, però, per cui, più i ragazzi che lavorano a Venezia. Più ci sono i ragazzi che lavorano a Venezia, poi ci sono i fornitori che, per quanto ci riguarda, sono parte dell'azienda, anche perché hanno avuto questo approccio. Questa mi piace molto. I fornitori sono parte dell'azienda. Questo è il concetto di open innovation, il concetto di aprirsi, di lavorare con i fornitori. Cosa intendi per fornitori che sono parte dell'azienda? Beh, partire dal lavoro che abbiamo fatto straordinario, che per me è stata un'esperienza prima di tutto educativa sulla creazione del marchio, fino alla discussione che abbiamo avuto prima negli studi di mercato, eccetera. E io ho avuto a che fare, ho avuto la fortuna, anche perché non è facile, no, trovarli, di confrontarmi con persone che si sono messe dentro il progetto e che hanno saputo dare il loro contributo nella misura in cui era funzionale all'azienda, al progetto, non all'azienda. Che il progetto non si identifica né con la mia azienda né con la loro, perché ha una sua vita. È giunto il momento di salutarci. Ringrazio Tiziano Peccenini, detto Pecce, che è il fondatore e presidente onorario di Wall Street Institute. Pietro Peccenini, fondatore insieme a Pecce di Belle Brava, questa meravigliosa avventura che presto andrà sull'internazionale. Ringrazio dall'altra parte del vetro Roberta Frisani e Stefano Scondrini e ovviamente tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Gli argomenti trattati su Radio Next di oggi e delle scorse e delle prossime puntate sono approfonditi sul sito della Business School del Sole 24 Ore. Per qualsiasi provocazione, idea o consiglio, vi ricordo il nostro indirizzo di posta, che è radionext@radio24.it. Un saluto da Pepe Modero.